E ti rivedo in piedi alla finestra, dietro i murales della vecchia scuola. Chissà se ci pensi ancora, quando bevi un po' la sera. Questi anni che passano in fretta, quando piove la città è deserta. Chiudo gli occhi, tu ti spogli, in slow motion dentro i miei ricordi. Non posso più fingere di stare bene se non ci sei. Niente è per sempre, tu sei il mio niente. Se in futuro non ci sarai, ti aspetterò sempre al 20 settembre. Costretto a vivere dentro un flashback, con la mente in cerca di un perché. Perché ci siamo persi, cosa ho fatto per allontanarti. Non posso più fingere di stare bene se stiamo insieme come ci viene. Non posso per sempre. Futuro non ci sarai, ti aspetterò sempre al 20 settembre.